finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, è solo chiacchiere distintivo. Dovrebbe essere il 26 di maggio, se non andiamo errati. Che dovrebbe essere Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Dobbiamo capire se ritorniamo in onda. Probabilmente un po' troppo bassi. Stavamo ancora qualche secondo di regolazione dei microfoni, impicci e imbrogli vari. Ci dicono che siamo in onda, tra l'altro stranamente ritorna anche in cuffia la nostra voce, incredibile. Allora, ricominciamo, quindi 26, quasi 27 ormai di maggio 2021. Intanto tanti auguri Radio Onda Rossa, non abbiamo avuto modo di farli, abbiamo avuto modo di farli a modo nostro, mandando in onda una traccia apposta disegnata. Auguri, ce n'è bisogno, perché la radio vive di autogestione, con tutto quello che vuol dire autogestione, quindi anche, diciamo, i problemi dell'autogestione. E così, rimanendo sibilli, però sappiamo tutti e tutte cosa vuol dire questo. E problemi anche economici, perché Radio Onda Rossa, come sapete, non fa pubblicità, non è organo voce di partiti o partitini politici, e perciò l'unica fonte di reddito della radio, l'unica fonte che permette di continuare a trasmettere, è quella del vostro contributo, che da 44 anni non fate mancare. C'è la campagna, avete sentito poc'anzi gli spottini, c'è la campagna di sottoscrizione, ormai non più straordinaria, perché insomma è la fonte principale di introito per continuare a trasmettere, che è quella del radioabbonamento. Basta andare sul sito e andare a cercare, appunto, in alto il banner che vi fa entrare poi nelle pagine apposta dedicate alla sottoscrizione, e lì troverete tutte le informazioni necessarie, le coordinate per poter partecipare al 30 per 1000. 30 euro per 1000 di noi e di voi in un anno ci permette di vivere in tranquillità, almeno dal punto di vista delle finanze, solo da quello, ovviamente. Allora, iniziamo subito stasera con una sorpresa dagli 87.9 della banda romana e laziale, perché così innanzitutto siamo al completo, quasi al completo, no, al completo no, perché appunto ci sta poi talmente tanta altra roba di persone che così transitano per lo strano collettivo redazionale di 25 o'clock, però diciamo informazione ormai consolidata da tanti anni. Ecco, e appunto poi venendo qui a trasmettere da remoto, abbiamo così caricato in macchina, vabbè, in disperato, che avete sentito in forma registrata già diverse puntate che poi noi manipoliamo, peraltro rovinando quel poco di buono che c'è dentro. o quel tanto di buono, non lo sappiamo, sarete voi a dircelo. Comunque l'abbiamo caricato qua ed è appunto proveniente dal tempo, in realtà non dallo spazio, cioè da qualche millennio fa. Si tratta di Velester. Un nome evocativo che, come d'altronde sono evocativi i suoi suoni, e stasera sarà in diretta, cioè proveremo questo esperimento ulteriore perché già quelli passati non ci sono bastati. E quindi vediamo cosa va a finire. Inizierà lui, purtroppo non parla la nostra lingua, quindi non avremo modo di mandarlo in onda, se non nella forma musicante musicata che gli si contraddistingue, che gli si confonde. Quindi 0649175050 recapito telefonico, onda rossa @ondarossa.info la mail, www.ondarossa.info il sito, l'abbiamo detto, 25 o'clock @ondarossa.info la mail di noi altri. E adesso va bene, Esther. Oh. Non è un saggio contro la civiltà occidentale che ha come struttura portante l'uomo o la sua ragione, i suoi sentimenti, la sua morale della libertà, i suoi sentimenti, la sua morale della libertà, i suoi sentimenti, che previsione sulla scomparsa, fatto nessuna apocalittica previsione sulla scomparsa, fatto nessuna apocalittica previsione sulla scomparsa, fatto nessuna apocalittica previsione sulla scomparsa, fatto nessuna apocalittica previsione sulla scomparsa, fatto nessuna apocalittica previsione sulla scomparsa, fatto nessuna apocalittica previsione. Ho inteso solo dire che la cultura, i suoi sentimenti, la sua morale della libertà. Thank you. discendente di un'antica famiglia. Io sono discendente di un'antica famiglia. Io sono discendente di un'antica famiglia. Io sono il discendente di un'antica famiglia. Thank you. You even try you would hold another hand. Oh, understand, they even see me under cold. We under all, we awful, awful crawl to MIR. Come see me cry. Just searching, you even try. I can make you smile. If it's there, will you go there too? When I live, I die. They even see me under cold another hand. Oh, understand, they even see me under cold. We under all, we awful, awful crawl to MIR. Come see me cry. Just searching, you even try. I can make you smile. If it's there, will you go there too? When I live, I die. They even see me under cold. We under all, we awful, awful crawl because of you. To see me be. Allora, torniamo sugli 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale dopo aver ascoltato. Vabbè, insomma, com'è andata? Ma dovremmo ritornare perché mi sento lontanamente. Io mi sento, sì, no, ritorno. Ci è voluto un po', abbiamo conferma poi con no, dei ritardi. È il tempo essenzialmente, non tanto lo spazio. Questa è la scursale di Ror, sapete, insomma, ormai. Just searching, you even try. E niente, insomma, abbiamo incontrato una specie di barbone. Come è stato l'incontro con Ma cioè, la prima cosa che mi ha incuriosito era il vestiario. Sì. Perché girava qui intorno vestito di un. Di cuoio. Un corto chitone. Sì. No, sì. Sì, ma era di cuoio. e poi aveva una specie di corazza. Sì, aveva una corazza pettorale, bronzea. Di bronzea. Sì, sì. Non so. Dei sandali, insomma. Dei sandali. E poi una bisacca. Quindi non si poteva non notare. Non si poteva non notare. D'altronde che qui c'è questo incrocio temporale in cui appunto i segnali si sovrappongono, eccetera, eccetera, ed è entrato questo segnale, perché probabilmente di questo si tratta. Non dici, un'interferenza temporale? Sì, deve essere qualcosa, qualche cosa di elettrico che sia andato. Qui da queste parti si inceppa sempre. No, mi piace sempre questa tua interpretazione da un punto di vista. Sì, ma c'ha una sua fisicità, ma in realtà è interferenza, ecco. No, però è pure una, come dire, una sicurezza che ti dai tu con questa, cioè, nel senso, potrebbe essere pure un'allucinazione. Sì, sì, probabilmente, data anche la puntata questa sera, che si baserà molto sul mezzanotte 17, possiamo pure dare l'addio a Andarci. Però insomma, Quentin Volok, Radionda Rossa, Terremoto, Velester Live, questa entità si è introdotta qua nella scorsale di Ron e ha prodotto sta roba. E niente, insomma, poi non sappiamo nemmeno i risultati, perché le strumentazioni qua non ci permettono di ascoltare. No. Comunque di vari. Ma per 25 clock è una cosa abbastanza frequente, sì. Fare i salti nel buio. Sì, sì, sì. Ci piace fare questo, ci piace sperimentare, e difatti parliamo di sperimentazione stasera. Proveremo a mettere due parole e due pezzi in fila uno dietro l'altro. Quello che avete ascoltato finora era, e continuate ad ascoltare, era No Man's Land, tratto da Marty Applaus. Si tratta di un disco in realtà pubblicato nel 2004, pubblicato originalmente nel 2001, e invece poi pure pubblicato nel 94, e comprendente tutta una serie di prove di registrazione che hanno fatto. Un disco complessissimo, come poteva essere, semplicissimo ma complessissimo, perché ormai Sid viveva just searching, you even try, I can provo a fare un disco suonato dai Sos Machine, che roba guai, soci più anni di session, che sono un po' si sentano, perché non ce l'hanno fatta. Sì, perché lui praticamente preparasse li suonasse e poi non la banda, ma proprio in studio, e quindi è possibile seguirlo, a meno che non, alla fine insomma cambiò produttore, cambiò, andò Roger Water, cioè vecchi amici, eppure volarono. Però insomma, questa cosa, la copertina di questo disco comprende una foto di insomma, ragazzi, che però viveva a casa sua, ma non sapeva che lui aveva suonato fino a poco. Era un ischimese. Beh, cioè, vabbè, insomma, questo è il personaggio che si abbina, si sposa, adisce a noi come un simbolo sempre. Da Rat Club, il singolo di questo lavoro era Octopus, di cui noi andiamo ad ascoltare però non tanto le prove, le prove di questa cosa, ecco qua, non da cioè, trip two, should I do that? Two. After. Keep going, sir. Trip to heave and hoe, up, down, to and fro. You have no word. Trip trip to a dream dragon. Hide your wings in a ghost tower. Sails cackling at every plate we break. Was cracked by scattered needles. Little mini gong coughs and clears his throat. Madam, you see before you stand. Hey ho, never be still. The old original favourite grand. Grasshoppers, green, a berry and band. And the tune they play is an us can find. So trip to heem and ho. Up, down, to and fro. You have no word. Please leave us here. Good to be lost in the wood. Isn't it bad so quiet there? In the wood. It meant even less to me than I thought. With a money plough, yellow prickly seeds, clover, honey pots, a mystic shining feed. The mad cat laughed at the man on the border. Hey ho, half the Talbot. Wings they blew and leaves did wag. And they'll never put bag. The raging seas will always seep. Two up, two down, we'll never meet. Squeaking door will always squeak. So high you go, so low you creep. The wind it blows in tropical heat. Two up, two down, we'll never meet. Merrily trip and good my side. Now please leave us here. Close our eyes to the octopus ride. Touching hips to a madcap galloping chase. Cheat, he cried, shouted kangaroo. Strewing that tree, they cried. Please leave us here. Cups come the light. E quindi sempre Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, questo è 25 o'clock. Non andiamo in cuffia stasera, cioè, la cosa principale proprio quando entriamo in radio, mettetevi la cuffia quando niente, no, no. Tra l'altro arrivano anche degli abbai qua sotto, vabbè. E questi erano i primi Floyd, quelli di The Pipers and Gates of Dawn. E questa Syd Barrett alla voce, che ne era così. Sicuramente la parte geniale e al tempo stesso però imprevedibile, ingestibile dal punto di vista. Vabbè, Shining You Crazy Diamond brilla pazzo diamante per qualche istante, insomma, come poi era stato raccontato e definito quando ormai la macchina era diventata una macchina incontrollabile, fatta di troppo, di esagerato, di tutto. Noi così molto romanticamente preferiamo questo tipo di sonorità, e allo stesso tempo questo tipo di sonorità ha fatto strada a seminare, tanto che troviamo proprio da noi a Padova nel 2007, se non andiamo, no, ma anche prima, già alla fine degli anni 90, Jennifer Gentle, che proprio andavano a così a piene mani ad attingere a quei due tre dischi che hanno poi fatto veramente ogni traccia del genere a sé della psichedelia, non solo della sperimentazione. Marco Fasolo è un po' il genio invece di questa formazione Deus Ex Machina. Jennifer Gentle, andiamo ad ascoltare Electric Princess dal lavoro del 2007, appunto, dicevamo, che si chiama Midnight Room. Jennifer Gentle alla Radio Onda Rossa. E questo è il crescendo di White Rabbit, dicevamo appunto durante l'esecuzione, sentita, risentita, ascoltata, riascoltata fino alla nausea proprio. Però è un crescendo di quelli che pure qui fanno la storia. Perché White Rabbit? Perché White Rabbit è nel 1967 come il padre Sundown, e perché è l'altro versante della psichedelia, nell'utilizzo smodato della dell'acido di esercito dall'Atlantico, ma dalla parte del Pacifico, la West Coast, no? E quello che succedeva da quelle parti, quel 1967, che poi è sfociato in un 1968. Devo dire, andando a sfrugare in quegli anni, non ci smette di prendere mai in quanto è stato prodotto proprio per questo fermento. Ci piace dirlo, sociale, politico, culturale, era inspiegabile, proprio assolutamente non percepibile questo fatto di fare una rivoluzione, di farla, di rompere completamente con quello che era il passato. E questo si sente, si ascolta. Qualche anno dopo, 1974, sempre in tutta questa Minneapolis, sì, dove poterla mettere dentro, nasconderla, catalogarla, perché sono realmente incatalogabili, proprio perché loro giocavano un po' come facciamo noi, come fa Pedester, che ci piace, giocavano con tutto quello che veniva dalla cultura pop o dotta o colta, e un miscelatore, un frullatore folle, però appunto sconsiderato, andavano a produrre questi dischi e questi lavori. Stiamo parlando di Resident, ovviamente questa è il fantango Araneonda Rossa 25. We'll be right back. Going to the City, quindi abbiamo ascoltato Nico Di Nalli. L'anno è il 2012. Il lavoro si chiamava Upstage. E un po' l'animatore del progetto è Paolo Mioni, ex chitarra di Jennifer Gentle, quindi sempre area scena padovana. E sempre sonorità che richiama le ballate più sghembe, più acide. Che furono così coniate proprio alla fine degli anni 60. E poi stravolte ancor più proprio negli anni 70. Altra band seminale, Suicide. Il loro unico lavoro, disco del 1977, disco ufficiale. Che uscì proprio in un altro anno fatidico, il 1977. Ma Suicide suonavano già dai primissimi anni 70, dal 72. Essenziali come Basta Essere e chissà che pure Veles. Che però ci sembra un po' meno essenziale, più ridondante, abbia però anche lui così saputo rubare alla manipolazione sonora quei piccoli strumentini che però sapientemente suonati sanno creare dei sound e delle magie sonore. Quindi Johnny rimasterizzato nel 2019 Suicide. Places soft and round, I won't be so unhappy now. I'll leave this town, leave it now. Commentavamo a microfoni aperti, qui ci starebbe bene questo, qui ci starebbe bene quello, ma appunto l'ispirazione viene. Stavamo qui cercando di dire il suono all'Alexio, probabili usi di droghe diverse. Sì. E quello che sì, poi è diciamo questa parte di le cose, le strofe, le favorite, moltissimo, e ha fatto strada, fatto più che questo lavoro del 2018. Di piazza Cavellone, che che faccia in questione, appunto, del 2018, siamo a Giorgio Jessica White Fence, Radio Onda Rossa 25 o'clock, una superazione, lo riconoscete da solo, dai, un altro gira pure in automatico, no, forse questa faccia. A star in my vast sea, I opened my eyes to take a peep, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then, when the hurdy-gurdy man came singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man came singing songs. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. E siamo approdati infine in terra texana, quindi ancora negli Stati Uniti. Nel 2014 usciva questo EP. 2014 EP per The Black Angels, Executioner era la traccia che abbiamo ascoltato, il disco si chiamava Clear Lake Forest, ed era un EP dalle sonorità molto interessanti e per certi versi sorprendente, perché abbandonava un po' quella che era la caratteristica fino a quel momento dei Black Angels, cioè una psichedelia abbastanza distante dai Gaius, perché è un po' più composta nelle posture, ma comunque una psichedelia grande, magnifica. E quindi c'è un ritorno all'essenziale per loro. Dopo aver ascoltato Donovan, quindi un grande classico, Andy Gatman, dobbiamo pure noi il nostro omaggio a chi ci ha lasciato. E non lo facciamo con piaggeria, nel senso che quando c'era da criticare Franco Battiato l'abbiamo anche fatto, insomma, con la sua intervista, la sua partecipazione, collaborazione, qualche incontro con Casa Pound, alcune sue posizioni molto intellettualistiche, insomma, alle volte c'è stato anche attivato. Però è appunto quello che ci dispiace di più è la piaceria, insomma, quando poi si muore tutti vanno ad apprezzare al locale. Parlando di maestro, eccetera, eccetera, senz'altro, insomma, la strada ne ha fatta molta, ci piace ricordarlo, però come era nel 1972, cioè assolutamente sì che torna. E anche qui andiamo a pescare atmosfere floydiane di quelle di Natale. Questa è Beta, tratta ovviamente da Pollution 1972, Battiato. Do what you should, honey. and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, old child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night, angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's tree. On a warm San Franciscan night, old angel, young angel, feel alright. On a warm San Franciscan night, I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel alright. On a warm San Franciscan night, the children are cool, they don't raise fools. An American dream includes Indians too. Eccoci ritornati in onda. San Francisco Night da capo, la mandiamo per gli Animals, eccola qua. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco. E appunto parlavamo di Eric Burden, onestamente abbiamo un po' perso le tracce. Vabbè, non ne parliamo perché potremmo dire delle stupidaggini, no? Però facciamo parlare del 19... Ogni tanto ce ne preoccupiamo di questo fatto. Sì, no, no, il semplice fatto che fino a un po' di tempo fa sapevamo che fosse vivo Eric Burden, però ci perdiamo tante cose poi. Anche perché molti così se ne vanno con grande clamore, altri grandissimi secondo me. Come non li vogliamo tirare. Però per dire appunto, dicevamo, gli studi praticamente di passazzo di pop che ancora produce peraltro. Però insomma la scomparsa degli altri tre membri ormai già negli anni 90 credo prestissimo. Gente abbastanza bruciata dalla vita e dalle sostanze che assumeva. Jeans of blue, Harley Davidson's tree. Va bene, dai, insomma, disco seminale pure questo qui del 1967, si chiama Window Change per gli Animals, così al top. Dopo tanti anni di blues. anche loro attraversano un tempo di cambiamento. Questi ne sono i risultati. Ritorniamo ancora a Tiali Sigal, perché adesso ce ne stiamo 7 minuti e 45 ad ascoltare. Come nel 2020 Fuzz interpretano appunto ormai nel 1967 2020 50 anni di storia. Eccoli qua. We'll be right back. Onda Rosso 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, ormai passata l'1.27 addirittura dalla succursale. Oh, ci siamo forse, ci siamo riusciti, niente, al solito il piccolo contrattempo, piccolo, chiama. E... sì, abbiamo cambiato, dicevamo, un pochino il programma di come devo concludere questa puntata di 25 o'clock, quando ormai è passata, vi vogliamo lasciare stupare oltre. E vabbè, Ender Turning in fase lunghissima, tutto quello che è successo in questi 50 anni del mondo, non penso di dire troppo, però insomma ci troviamo di The Punk, un'idea sfera di Natale, insomma, ecco, così è meglio, ci perdiamo ogni tanto. Allora, niente, con questi saluti, dicevamo, abbiamo cambiato un po' il programma perché volevamo andare del briefing di Vic Chesnut, che è l'ultima traccia, ma la vogliamo ascoltare insieme a voi. I saluti vanno in onda, e, cioè questa è l'ultima cosa che ascolterete, poi va la sigla e poi si riprenderà domani con la consueta programmazione di Radio Onda Rossa, quindi con la rassegna stampa cittadina, i redazionali della mattina, e poi a seguire, dopo una pausa più o meno lunga per intorno all'ora di pranzo, con tutta scena cinema, poi Antica Blues, poi La Schiena del Sol, poi Mercedes, e poi Tabula Rasa, e poi Apostasia. Insomma, ve l'abbiamo detta tutta. Buona parte! Li abbiamo finalmente rivisti di persona, di queste persone che abbiamo citato proprio lunedì scorso sotto la radio. Così ogni tanto per riacquistare un po' di fisicità. Quindi ringraziamo Velester, che insomma adesso è stato già riportato, no, all'automobile dove vagava. Veramente si è allontanato prima. Si è allontanato lui. Quando ha messo Donovan. Sì. Ha preso i suoi sandali. Sì. E tra suoni gutturali. Un po' contrariato. Un po' contrariato, sì. Allora, ci riproviamo ancora una volta, credo che forse ce la faremo stavolta, il Chesnut diceva un altro dannato per chiudere. Morto suicida qualche anno fa, dopo però aver prodotto delle vere e proprie perle. Dal suo punto di vista, dal punto di vista suo, insomma, del contributo che dava poi alle sue produzioni, soprattutto dal punto di vista della poesia e della interpretazione drammatica, sempre pure semplice, che dava le sue composizioni. Dai, facciamola finita prima che ricaschi tutto. Bella a tutti e a tutte, ci risentiamo mercoledì prossimo, forse, io credo di no. Così? Sì, io credo che non ci sarà. Vedremo che cosa si può fare, dai. Sì, in qualche cosa modo, in qualche forma, in qualche tempo. Continua, certo. Bella a tutti e a tutte, ce ne andiamo con Vic Chesnut e poi la sigla. Being led away by police. He was wearing a head-to-toe forensic boiler suit. At about the same time, should be modified. We should expand. Lord, good morning. and good night. September the 16th, and aren't you supposed to be in Halifax? radical minds.